dell'indennità di fede, poi lui ci deve pagare l'indennità del, come si dice, l'indennità che, beh, aspetta qualche settimana, quando immagini, ah, l'indennità messa, è messa il lupo, non dà mica la quota salina, quella che ha l'indennità messa. Io vengo a sto lato, ma non è che se ne viene qualche indennità messa, e poi cavale è segnato, ma non se ne vendono. Non ci abbiamo buon impasto, io quando rientro a casa che ho un'oretta mi fermo dove voglio, poi c'ho il ticket, mangio da qualsiasi parte. Di solito mi fermo lì a Porto Vesera Bruno, lì in Piazza Colombo, lì da fuori orario, mi mangio un piatto composto o qualcosa, sempre. O da Michele o da. Non sono abituato ad andare in ristorante di prima scelta, io quando c'ho una fettina, un po' di salata o una tranzata, ogni volta mangi qualcosa che il banino mi mangia a pranzo. E così quando ci rientro, però ci abbiamo i buoni, capito? Noi mensilmente, ogni mese, quanti giorni hai lavorato, perché ti riparano se te li pugi, quindi 22 giorni, te ne parano sempre 30, però 22 giorni, ok, 22 buoni, 26 giorni, 26 buoni. Non hai riposato per niente, hai lavorato tutto il mese, come io ad agosto. Mi hanno dato 31 buoni a me ad agosto. Eppure mi sono fermato il giorno di 13, 14, 15. Sono entrato 16. Eppure mi hanno dato 31 buoni, capito? Perciò, per quello non ho niente da dire. Il cacciatore l'ho preso e solo perché ho visto le cose che non dovevo vedere, non mi piace vedere le altre cose, purtroppo io sono fatto così. A me già mi casa a casa e si vede una briciola in terra, ma già di luci a travaglio poi si vede uno scempio del genere, ma stai scherzato, ma non esiste più. Andiamo a pappare, ci sentiamo dopo. Andiamo a pappare, ci sentiamo dopo, buona carica, buon tutto, a propri. Vabbè, dall'inizio alla fine sono sempre le cose principali. K. Roggio. Si è sentito domenica, se dovete l'ho lavorato oggi. Tutta la sera accesa. Proprio da quando sono entrato, dalle 7, 6:30. Ho fatto la luce, sono seduto qua, stavo facendo roba al computer, era tutto acceso. Inserisco sempre lo squelci leggero per non sentire rompimenti di palle. Però domenico quando passa che chiama, già me lo apre. Non l'ho sentito, poi alle 8 e che l'abbiamo chiuso in 8:30. Forse non è uscito il giorno, strano, si è preso una giornata di riposo. Daniele sì, l'ho sentito, ma Domenico... K, le tre strade sono preso una giornata di riposo. E mai venuto la radio, ma si è a posto. Signora Grande, sta già dando picchi positivi, tutto. E beh, gli ho aperto leggermente il control del mic, sta spingendo un po' di più, però c'è da fare ancora quel lavoretto che ho fatto al mio, dai, ma io non glielo faccio perché ci vuole l'oscilloscopio e poi metto l'usa così, intanto non è suo, quindi il salvatore va bene. E quello che avevo fatto avere io lo stesso. E niente, abbiamo fatto quella regolazione all'interno, un po' famiglia, però devi usarlo perché era molto freddo. L'aperto va entrare tutto pieno di polvere, tutto pieno di garraggio. I miei, tutti e due 140, sì 80, ne ho due 140 ancora, ne avevo 4, ne ho ancora 2, sì 80, 430, 440, tutti li ho fatti sentire. Devo lavorare così, con quella modifica, perché sono chiusi, capito? Sono chiusi in AM, quindi leggermente lo devi aprire, altrimenti non spinge. Non spinge. Comunque adesso ha migliorato moltissimo lui, anche perché avevo il driver bloccato, quindi tutto pulito che ho fatto, adesso almeno non fischia, non fa casino. Va bene, l'importante è l'abbiamo messo un po' a posto, perché è peccato il radio, capito? Beh, se ce l'hai lo devi usare quella maniera lì, altrimenti ti conviene darlo a chi lo usa. Ho messo a un'altra persona, c'è un 440 linea completa, ma non le faccio niente. Adesso il 21 vado alla fiera di Genova, 21 dicembre, porto su questi due. Uno, un 140 non lo tengo, un'altra radio che ho, valvolare, nel verso 2 ne prendo una un po' più consistente, tanto le tieni, non le usi, sono doppie, però vado in fiera con le cose acerche lì, tocchi, vedi, provi, comprare la ghiaccia di eBay, non mi fido più, avevo preso il 101 digit, una grandissima radio enorme, mi ha rimandato dentro la valvole, mi è costato 300 euro tiro di valvole, manco una ce n'era dentro, cazzo, un'incazzatura, guarda. Ma si immagina, non dici, sono operature, ma in una fotografia ti vuole vedere una cosa, e quando te ne mandano un'altra. No, fatto comprare lì, anche quello che ha regalato a Franco, il Sommercamp, il che è praticamente il gemello del 101, però è della linea Sommercamp, che le piaceva, l'ha regalato a Franco California, lo stesso. Stesso problema. Fortunatamente ne avevo qualcuno io di scorta, perché lì ce n'erano due bruciate, quella proprio del ricevitore e quella dell'accoppiamento del valvole, che praticamente ti dà quella che lavora sul preselettore, che se quella non agisce praticamente è come il transistor, quindi il prefinale, quindi non dando media potenza a quella, l'altra non eroga niente. Ne avevo due, una l'avevo trovata a Fusaro, quindi l'abbiamo messa a posto, ma non si può comparare sotto dei punti vecchi. Oh, cazzo, nuovissimo, è di pacca, guarda, Franco è nuovissimo, nuovissimo, infatti l'ho visto domenica, ma non parlo proprio di quello, intanto perché è sempre fuori, però mi ha detto ogni tanto già li accende, nuovissimo, proprio di pacca, però la VT2 l'ave sempre, non te lo mandano senza microfono, non te lo mandano con le valvole bruciate, quelle linee lì sono linee particolari, anche perché poi non trovi quello che ti serve e te lo attacchi al guale, capito? Tu? Eh sì, beh, infatti se non hanno la loro linea, cosa ne fai di una radio non ha le valvole, o una radio non ha microfono, cioè non ha senso, ecco. È piove. No, ma che? Non ho visto niente qua. Maita. Mi sono muovo che pegua la gente. Cappa. Vabbè, tu. E te mi conta già. Sì, te mi conta. La valletta, gente, la valletta. No, qua non sta piovendo. La te piovendo sta qua. Sì, sì. Mi sta sciacquando la macchina. La mia unica preoccupazione, sapete, qual è quando piove? Se non si mette a temporare fulmini e quelle varie. Perché se parte qualche pompa, devo scappare. Devo andare. Mi devo trovare tutta la notte il telefono acceso. Per lo meno oggi. Domani non sono reperibile. Che rottura di batta, eh? Speriamo che no. Che rimanga così, che non ci sia qualche stacco, come stamattina. Alici, se te ci vieni mondo, cazzo, per carità di Dio. Ci stanno i balconi, ovviamente, non già. Perché c'ho le finestre proprio a vetro. Poi le finestre sono a parte, si sente. Ma poi pensavo che era... Siccome volava già sopra di me, dall'altra parte c'è altro pure il condizionatore. Quando va bene, no? Quando la accende, fa la cosa rumore. Ma non ero sicuro se sta piovendo o no. C'è la facciata, ho visto che sta piovendo. Infatti, quel tubo lì, se lì, non lo è, fammi solo un picchio in culo, perché quel tubo lì, proprio cade, sai dove cade? Dove c'è la strappa del palo, dove scende l'acqua, e lì penetra. E in cucina c'è una macchia grande, grande. Si vedono le mucche sul tubo, non posso mangiare. Carità, guarda. Mamma. Sono sempre grandi problemi. No, io fortunatamente ho chiuso la canale, ho chiuso tutto. Ma sto più avvicinando, le giro leggero, senza vento, senza niente. Quindi più ottimo per il momento. Va bene. No, io ho chiuso tutto lui. Sistemato tutto con i giorni che mi feri, la prima cosa che ho fatto, mi sono dedicato alle antenne, ho chiuso tutto il canale, la siliconata, tutto a posto, anche oggi ho controllato, tutto in ordine, adesso non si vede se sta scendendo acqua o meno, ma che me ne accorgo domani mattina, se è bagnata vuol dire che non si ricorda bene la bomba asciuga, le metto un'altra pennellata di silicone. Avanti al tuo, riprendi al tuo, va bene al tuo. Ehi, ehi, e così io qua, se c'è la verità non le vedo di acqua, ma se sta solo più avvicinato, ma non le vedo proprio. Cosa più bello? Oh vabbè, cazzo. Vabbè, giramento di basso, non ammasso di la buona fredda sarà no, sono solo non va. Massimo di c'ho l'automatic. Ora, ora. Va bene. Adesso le antenne devono andare in accordata riversa, perché l'umidità, la pioggia inizia a pulirsi da tutta la strada e quindi sicuramente è quello lì lui. Ma tranquillo, mi l'ha fatto anche a me, infatti ho messo in SW lo strumento del 440, ho visto che la 1.1 sono salite a 1.5, ho dato un colpo da corretto, adesso le scese a 1.1. Quello lo fa la pioggia, lo fa soprattutto quando c'è il cambio di temperatura così. Riprendi Anto, riprendi. Eia. Così, vabbè, ma quando siamo gli strumenti, poi abbassare e stazionare. Regolare. Già non ci saranno problemi. Oh, già. Ma quanto ci manca la roba qua? Le stazionali ti sono salite, si abbassano il watt, l'ho fatto anche a me adesso, a 4.40. Solo che me ne accorgo, c'è lo strumento incorporato, tu non ce l'hai. Ho messo in accordata e subito li ha tolte. Sono salite da 1.1 a 1.5. Come ha piovuto, adesso l'antenna era carica di elettrostatica estiva e la pioggia se la batte, quindi cambia immediatamente l'impedenza. No, che cazzo, vai. Fermo, volevo vedere appunto come sta andando la situation qua. Bomba fra 9.30, che era talmente carica l'elettrostatica e col tempo bello, se io più butto salgo la stazionaria a 1000, bisogna stare molto attenti, perché ti si abbassa il segnale di colpo e rischi di bruciare. Sono accordato l'acqua, la nostra la trovo io, ho accordato subito, infatti non l'ho acceso. Vabbè, ma io diciamo che allora le stazionarie, numero uno. Di cosa, di accordatore, ma non passare la ventola diretta neanche, non fa crabo, aspetta un attimo, mi smonto tutto, vediamo un po'. Cos'è che l'accordatore c'hai tu? No, la puntatore d'antenna, ci vuole mangiare tutto, ti ricordi, ho fatto lo scambio, ho mangiato una a 2, ho trovato una a 5, mi sono a 3, no? No, l'accordatore ci vuole, Luca, l'accordatore. Bisogna usare gli accordatori, perché te lo sto dicendo, dal caldo, la temperatura calda e quando non piove l'antenna si carica le elettrostatiche automaticamente, quando piove è un casino, almeno per i primi giorni è un casino, quindi bisogna usare l'accordatore fino a quando si pulisce bene l'antenna. Me l'ho fatto anche a me adesso, fortunatamente me ne sono accorto e ho dato un colpo con di accordatore automatico e me le ha battute, ma sono salite da 1.1 a 1.5 subito immediatamente. Ma sono accorto dai picchi di modulazione, infatti ti cala la potenza sullo smitter e non te ne accorgi. Quindi, poggio la penna. Allora, so cosa è. Vedi? È che, diciamo, però mi ha trovato un po'... non è andato, capito? Non posso neanche misurarla. Adesso al limite taglio, non rifaccio il PL. Però vabbè, tanto l'ho rimessa diretta l'antenna. Allora l'ho fatto una volta, però, lo stesso gioco. Cosa ho fatto? Io poi ho trovato il PL dell'antenna, il capo di discesa. L'ho rifatto, lì sulla Grumambo. Sicuramente magari non so taglio di rifaccio. Ma di solito lo fa sull'antenna, non su quello che ha attaccato la radio. Lo fa sull'antenna, sennò quando poi si stabilizza e entra in umidità, allora non lo fa più. Avanti a tu. Kappa. Infatti conviene aspettare un po', magari si mette a posto. Adesso lo devi attaccare, a fare. Insomma, non so se le faccio anche bene, ma comunque. Vedi tu. E allora, che ci racconti, bra? 7 gradi a niente, a tu, non abbassa l'altra, è casino. Comunque, anche tu mi ascolti bene in quella zona. Aspetta, benissimo, forte, chiaro, la radio, perfetta, senza disturbi, senza nulla, perfetta, va, buona. Questa è numero uno, cioè, va benissimo, di più. E anche a me comunque l'ha fatto con lo scherzo della stazionale. Lui ha fatto l'accordatura e gli ho portato sarà 1-1 qua. Cosa fa? E c'è la coraggio dell'accordatore e gli ha portato subito a 1-1. Sì, bisogna avere sempre l'accordatore in mezzo tra l'antenna e la radio, perché fa questi cambi con quando piove, capito? Infatti, non è che lo dico perché mi è capitato sempre, anche poco fa, quindi già stai attenti. Ok. Andiamo bene adesso. Era un bel tempo fermo la radio. Infatti, fa poco fa l'acceso, l'ho fatto scaldare un po', allora non andava. Ma ho visto che già picchia bene, già va bene. Bruciata. Non mi torna. Ma sai perché? Questo lo dico, vuoi sapere? Allora, siccome io qua c'ho il vicino al letto, questo cazzo di mobile brutto, questo comodino, se faccio la radio, se faccio di vita di mettere il piede, una volta c'è un numero al massimo la radio, in barighina, più di un numero importante. non so, non mi ricordo di quale era. Più di un'ora. Ci ha fatto, porco Dio, portato la radio. Ci ho portato l'aria. Secondo me si è bruciata. No, si è bruciata. Non si può essere mai bruciata la protezione. Tu hai stazionaria adesso. Minimo insieme a 7. E lui non sale più di quella potenza lì. Aspetta un attimo allora. No, questo no. Thank you. capito, anche io cerco una persona, questa ragazza su Paltarchi, non abbastanza. E poi tu mi dai, cioè è carino o no? E io sono qua, c'è problema. E quando vengo la faccia di Molanda mi rimane lì le palle in terra, infatti la camera nella giuci più divulgata. Ma aspetta un attimino. Se c'è la faccio vedere, aspetta. Ma sono qua, avanti fra le prime. E da Elia, io casino sto computer. Ma per carità. Tu non sei più entrato? E qualche volta. Ma no, non c'è più passione come prima. Ma è piacevole entrare ogni tanto, ma mi sta tuffando qua, perché devi entrare, saltare, mettere il sonno, è un lavoro, No, non mi attira neanche più a me molto, infatti ho mollato la chiuccia lì sono nella stanza di Franco, del team, però non c'ho più la chiuccia, non mi interessa. È sempre una cosa, poi chissà l'uomo adesso tutti a conto giù. Ora mi gatto tutti i militari, mi fate tu i suoi di dietro, ma vai girami le balle. E già, quando sono fatti così, ma non vedi sempre in provincia che sì. Sì, adesso sì. Sono giro, capito? Quando c'è la chiocciola non vorrei far girare. Devi stare sempre lì fermo e quindi era una rottura di spazio. E qua non c'ho più la chiusa, allora come mi piace. Sto lì, se ne voglio ascoltare musica, perché metto una bella musica come piace a me, quella musica anni 60. E sono qua dove mi piace. Non faccio nessuno e mi domanda. E sono preso lì perché era andato. Abbiamo aperto la Roma con Luca, Sonia, capito? E allora, una buca della chioccia, te ne dico, già me la fatta mai. Ma che dai? Se la facciamo la lavori, uguale la chioccia, non la devi fare, vai dove vuoi, non puoi andare dalla stanza che vuoi fare per la palla, capito? Quando vai su lì, adesso è un'altra stanza, c'è la chioccia, te ne vai sull'altra stanza. Invece se te chiudi la dove vuoi, è fare quello che ti piace. Sono 2 anni qua dentro, praticamente sono uno dei primi, non so la passata io ho fatto entrare qua dentro, quasi metto di cotte di crudi, se che i marroni, ma i marroni di cosa? Se tu non mi dai un impegno, non mi paghi, no, ah, ti devo dare anche, si dice, ti devo perché ho messo una persona, sono messo un motivo, cioè, ah tu vuoi fare di casa che sei, che vai, c'è il team, non puoi fare, no, mi pare il cazzo che vuoi, io non lo posso fare. Cioè mi ha dato l'incarico come superadmin è quello che fa, rimuove i banni e mette i banni. Come cazzo mi ha dato a fare? Tu sto a pagarmelo. Guardi lì, e quando ormai me l'ho declarato qua, ma superadmin senza dirmi niente. Come cazzo mi viene a dire, dai rimani come ha, no ci rimango, poi cambi mica brutto, levamela, non mi interessa. Io sono tranquillissimo adesso qua. Dopo il voglio, se mi piace rimango, adesso non lo metto in giro, come fanno tutti. È un impegno qua, fidati. Lascia la raga rilasciata, la magna sia. Sì, infatti non mi ha detto niente neanche nessuno. Entro quando voglio entrare lì, saluto a tutti, ascolto musica, vedi che non ne ho neanche messo musica lì. E non mi metto, non mi interessa. Però se uno c'è l'impegno di moderatore, allora soprattutto la cosa di seguire la Roma, di stare attento che non ci siano, insomma, seguire un po' tutto. E mica me l'altra volta è entrato il SMC, le carte delle balalacce, nessuno ha mandato, qualcosa l'ho buttato fuori. E Franco mi ha chiamato in privato, cioè non va bene così, ci dobbiamo consultare prima di mandare la gente. Ma non vuol dire bene. Ma tu guarda che non è come stai dicendo tu. Qua ci sono. sono loro, mi è concentrato, c'è un parolaccio, quindi pure ho rubato. L'ho bannato, l'ho bannato a vita pure. Ecco, dopo ho visto che ne ha tolto, dai panni, a Lucia, vabbè. Ha giubilato e ho cambiato tanto e non sono più entrato. Poi mi sono fatto la chiocciola da Luca e da Sonia, come scioccolatimi nella International Team, e dove visto che c'avevo la chiocciola, l'ho trappata e me ne ha tolta nella sua. Mamma mia, Dio, già me ne ha fatta mai. Mi dispiace perché cazzo l'apparato c'è più a passare euro. Cioè, ecco, mi è entrato. Banco male male mi rimbasso. Vabbè, ma lei se lo chiamava per il bene, a me mi ha detto, quel bastardo di Marco, se mi chiamava con le donne di tutti, capito? Ma andava a aspetta con le donne, con l'imbecille. Allora, io ci sono buttati di gabbo, è una cosa, perché un team, in tre ce l'hanno, lui, Marco, ma, che te la faccio in gabbo, la nostra sopra, che a lui l'ho eliminato, ha stressato. Ah, ecco. Vabbè, se parate mi sono preso il non accettano, ma non è quella roba del ballo a nessuno, capito? È così. Però ci va che tutto un altro bruscio, cada una bella persona, ti metti un po' questo barricone, il barricone che passò. Grazie, ci sono uno dei muri, amici, Luca, fino a campo, perché non c'è vabbè. Ma io mi metto anche la prima adesso, di faccio, non mi dicono niente. La stessa, è capitato che non avevo una roba, dove andava a Sunia, ha fatto amicizia con questa qua, no? Siete grande. Anche più grande di tecla, anche la tua, E così, prendo, come conoscevo già, no? Perché sapevo che era sempre con Sonia, tutto quanto. Apro la cam, è normale, no? Una faccia, un pezzo di petto, no? Qui la cam, ma non tanto lì, no? La parola, la room, una che è amica della padrona, no? Ma come stai scherzando sul serio? No, no, qui la cam. Ma scritto, sì, non va bene, boh, una cosa ridicola. E io mi dico, ah, vai, ci mi la guru, ma non mi sono riuscito. E ma mi sono messo per un giorno e mi fanno la fritta, non so se toccava. No, no, no, io sono entrato qualche volta, non mi hanno mai detto niente, no, me l'ha fatto niente. Però lì io entro quando ne voglio, senza chiocciola, senza niente. Se devo mettere musica, metto musica, se devo ascoltare come stasera ascolto. Ogni tanto scrivo nel rullo e basta, non mi frega niente. È un impegno. Se vuoi la chiocciola, non lo ti vuoi fare. Facciamo riprendere Antonio, vai qualche. Via. E io mi sa che... Riprendo, vi saluto a tutti che io chiudo che sono molto stanco. Gappa. Beh, Antonio, dai, allora, buonanotte, ci sentiamo, buon sabato per domani. Andar bene meglio, riprendi qua. Ciao Antonio, domani non ci vediamo, devo scendere presto a Porto Torres. Ci vediamo un po' domani, cioè ci vediamo, beh, dati il telefono per ritirare quella roba. Ok, ciao, buonanotte, a domani a tutti. Ciao, buonanotte, ciao Luca, ciao Franco e ciao anche agli ascoltatori. Tutto a domani, ciao, buonanotte a tutti. Ciao a tu, buonanotte, ci sentiamo. Buona giornata per domani. Non è una cosa grave, non ho dubbio. Ah, c'era qualcuno che stava fischiando sotto di te, però. Stava fischiando? Boh. Vuol dire che hai mangiato scagliola? Sì, sotto di te. Ti sia sotto, non sopra. Aspetta un attimino. No. No, non va. Vabbè. Ah sì, io non lo posso neanche spostare da qua, non c'è un cavo corto. Ma lui si arriva di 9,60, no? Cattavo qua, no? Ah, vabbè, non lo so, non so come deve salire, capito? Capito se la fanno scala qua? Perché la passiamo all'aria, non è ancora parecchio. Parecchio. Qua c'è 9,60 spaccato, però abbiamo quasi 9,40. Ma comunque ti ascolto bene, io ti ascolto benissimo qua. Sì, qua, in definitiva, questa ruma la rotta le palle, però dico lì, c'ha un attrezzo in privato, dico, tu piglia di la chioccia, la piglia di tutto, vai! Poi, qua se ne accorto Luca, la verità, perché lui che c'ha il team mio, io le do il team a Luca e fa tutto lui. Però, dico, almeno mandami un messaggio, dice, guarda che ti ho tolto la chioccia perché non va il tuo comportamento che là. Invece ha preso, me ne ha tolto, non mi ha detto niente, capito? Se ne è accorto Luca, è entrato nel profilo, ha visto che non c'era più la chiuccia. È andata preziosa, mamma mia Dio, che tu sia che vada a saveccia, chissà. Ma è stato piacere, prima era una nostra stanza. lì. Ma raga, non va a pescare, è più musica, vai a prendere la nuova torre. E ma c'è un dirigente che non mi piace, capito? Anche lì di... Io non la conosco, non mi interessa, ma prima se ne andata, c'è questa come gioia, a voi è turrata con la ghioccia, ma è grata, se ne andata, criticata a tutti, è turrata con la ghioccia. Che ha ragione Luca, sono dei bambini, capito? Non sembrano persone grandi, sembrano dei bambini rispettosi, che ci fanno i dispetti. Cos'era convinto Franco Tunder che io salutavo io? Ma lo faccio meno trovato dal guru. La favola più bella, sempre io la riccia. Poi aspetta, che erano in quattro, in cinque. Allora, che chiama? La spavola, Lady Vanilla, io come team, sono anche un team, però Mediterraneo, adesso non c'è più, se ne è andato Gianni, aspetta, che ne chiama? Insieme avevamo. Ma a me non mi hanno proprio levato, senza dirmi niente. Cioè, mi hanno incarico come volevi così, vabbè, e sono rimasto super admin. Tu fatti un conto, quasi, non dico 2 anni, ma quasi. E poi da lì entrava Moranda, Moranda non era un utente come tutti, no? E poi da lì anche lei subito, quando era in Cina, anche lei aveva fatto admin, dopo noi siamo super admin. E poi adesso vedi convinta che va, perché c'ha il, come si chiama, il grado più alto, ci devi comandare e fa, ma va a mattedì, infatti io nei contatti non ce l'ho più, non c'ho più nessuno di loro. Ho cancellato tutto io dei contatti del team di Franco non c'ho più nessuno, nulla, mi sono rimasti i vecchi contatti e basta, non me ne frega niente. Ho visto che sono entrato, mi hanno salutato tutti, c'è Mare, mi dispiace che lo dice una persona, sempre mi vanta per le song che metto, e niente, però Franco si è convolato male con me, perché non mi ha neanche avvisato, mi ha subito tolto un rattolo e poi ha dato la chioccia mia, l'ha data preziosa, ma la mania di ma non mi diceva ghioccio. Ci voglio ghioccio e mi compare giù una busta di gioca e faccio la ghioccia, vai Franco. Allora mi sono fatto il formalizzo, ci mancherebbe. E ti faccio vedere io al team adesso, mi lascio via adesso. Ah, con la camera, ma questo non mi dicono niente. La stessa cosa come mi conoscono là, la Babbia, mi conoscono qua. Ma questo sta a dire, a dirmi le cose, ma va ammazza di là. È ignorante, buono. Riprendi il camera, sento 5 minuti. Via via. No, no, ma ho notato, ci sono persone in quel team lì che non vanno bene, perlomeno non hanno molta dimestichezza nelle cose, perché ci vuole anche un po' di serietà nel dirlo, no? Se hai un problema me lo dici, io mica l'ho fatto perché volevo farmi vedere, non l'ho piaciuto. Io ero matimi, quindi c'erano superatimi, perciò potevano bannare loro, io ho bannato. Mi buttavo fuori e Franco mi ha mandato un whisper e mi ha detto non va bene bannare così velocemente. C'è una mezz'ora a cattolice con tutte le ragazze che ci sono lì. Gli ho detto non va bene. Poi io stavo aspettando lo bannevate voi, invece l'avete lasciato continuare, quindi mi sono permesso di puntinare il bannare. No, no, ma bisogna ne discutiamo tra moderatori per fare queste cose. Ah, gira, mi ha detto, vabbè, fallo tu la prossima volta. Ho salutato a tutti, ma sono andato in un'altra stanza e da giorno non ci sono più entrato. Poi abbiamo aperto la nostra con Luca, si è accorto lui che io avevo la chioccia in un'altra stanza, la presa me ne l'ha tolta, ma per il dire, cosa me ne ha tutta a me. Non ha più problemi ad andare a Drecca, ci dica. Ehi, ce ne sono 6.000 del nome, figurati, se devo stare lì a girarmi le basi. Oramai in un anno, quasi, già mi sono fatto conoscere abbastanza, perciò non ce n'è problema. Ah, invece, quando devo entrare, li hanno in giro, c'è un volume attivo, capito? C'è un altro nick fra che si chiama Kenwood MC60. No, perché non è un capo 60. A me me l'avevano già parlato, però non ci credevo. Poi mi ha detto una persona che è un maniaco come lui. Ma siamo qui quando si mette in cam, cattivo maniaco. Ma non è uno di vita in cam, allora vedete di notte a luce con occhiali niente. Cazzo pare un cucumiano pare, il cavattino, ma che cazzo c'è a me? Per carità, cazzo, che cazzo guerra, non mi è piaciuta quella stanza, mai prima, mai piaciuta. Oh, ma non mi sta piacendo neanche tu, non è quella dove sono io, ma io voglio andare lì perché troppo pure mi fai cazzo, capito, troppi casi che stanno succedendo in quella stanza. Serena Oppure volevo guardare un video famoso, quello che suonava, anche suonava il piccolo vecchio a quel culo. Allora, l'hai detto, guarda questo sassofono, se lo sai suonare, inizia a farlo cantare, che è tanto antipatico, che questo incravattino si può in campo, lasciami la frutti, il dove maglietta, petto nudo, cosa, per divertirci con, a volte quando c'è Patrizia, facevo un po' di casino, mettevo il berretto alla messicana, con le cuffie, cazzo, mi facevo un po' la brutta. Stava a me, prima qui stava a me, poi è iniziato un po' a essere troppo famoso e niente, un giorno mi sono attaccato a un'onda per con la Trunic, che ero sempre io, lei non si è accorta che ero io, capito, e gli ho detto perché l'ho mandato al mio amico, ho detto perché stava dicendo delle cose che doveva dire, cazzo che ho preso da falliti che brutta sangue che stai mettendo, ma non viene più bella, stavo prendendo in giro, capito, ma molto tranquillamente, molto educatamente, ha pigliato una buona mano, dove usci è? Sono uscito, non chi sono chi sono entrato, ma non mi va bene lì, con la chioccia, ma perché non mi ha mandato la Frankenwood? Perché tu che cosa vuoi? Non sono problemi tuoi, mi ha detto, non sono problemi miei, ha detto, guardi, ma non mi ha detto, e niente, ci siamo attaccati e non è finito lì. Infatti c'era Franco, se lo mette, dirvi qualcosa, passate in privato, ma gli non devo dire più niente a nessuno io, per me può fare quello che le piace. Ho preso lo sbannato alla Kenwood e sono tornato a entrare con chi sono i e non ho detto manco buona Eda, a chi si fa vedere la buona buona Eda. E poi più che è stato vedendo che è stata da noi il corso, il babbo, che si è messo in web, il recipiente e si è portato a andare, ma non c'è mai venuto, ma non c'è vista quale. Ma per carità lasciamo perdere. Perché quando è in camera non so cosa fa. È sempre tutta ripitturata e poi i dita in altra manca e abbassa la calma per far vedere lo spacco le dita. Allora ma ne ha dita in aggiungi meglio dei due. È vero, Paolo, adesso si è fatto tutta ricciolina. Quando l'ho vista? Ieri sera era da noi. Ieri sera è stata da noi, la pittura era così, tutta collacciata per carità. Infatti stavo aspettando di mandare, ma perché adesso non c'ho più, ce l'ha capito, ma non mi ha detto neanche, ma ha detto Az, ha scritto Az, anche molto vero che c'è. Ma care dai, io. Entra da noi pure, ha capito. Ah, ma sei abbasso. Addirittura, preziosa, c'erano degli anni lì a Coso, in Babilo, adesso lì da più musica, ne hanno fatto giovani. Sì, se mi ha detto Luca, me non mi sono anche accorto, perché non mi interessa. Non me ne sono neanche accorto, infatti io stavo entrando senza chiucciola, capito? Senza la password, quindi se io non metto la password non mi dai in automatico la chiucciola, altrimenti mi dai la chiucciola. E invece un camion mi ha scritto sul rullo, te l'hanno già tolta. Se ne accorto lui, capito? La chiucciola mia, la data preziosa, ma si ne frutti, ma mani a dire, mia, adesso chi c'è? Ma ci sono sempre, io che sono appeso. E se ne sono accorto che sono appeso, perché non sto scrivendo nulla. Non sto mandando niente, capito? E mi ha pure lady, cazzo. Anche lei si è comportata non bene, sono tutti andati a criticare e poi alla fine sono andati a piangere di nuovo per farsi dare la chiocciola. Ma vai cagare. Adesso non accanto dove sono io qua, mi sono tutti i bastoni, con la chiocciola. Cosa ne fanno di 20 persone con la chiocciola? E non ho capito. Non va bene. I moderatori, secondo me, io ne ho già parlato anche con Luca, i moderatori. In una stanza così grande, soprattutto in questi team così, non vanno bene essere tutti moderatori, perché alla fine poi quelli che entrano per mettere musica, per divertirsi, rimangono un po' così, capito? E l'altro giorno tu immaginate che eravamo nella... Guarda, se tu guardi il team, guarda, sono tutti verdi, tutti blu e tutti viola. Dicevo, Anguilla, Ether, 89, 1, 2, 3, 4 mail ce n'è. E fortuna di un nome così, che c'hai tutti i moderatori, tutti in verde, come il mio, come il tuo, tutti in verde, tutti in blu e tutti in viola, che sono i colori più grandi che ci sono, i moderatori. E poi ti trovi tutti questi qua in nero. Io vento la macco, usci, non vento la macco che sei proprio sotto terra, capito? Basta che sgarri e ti ci buttano fuori. Beh, certo, è così in definitivo. Ma io c'ho quelli che bucca e va bene, funziona bene anche. Ma che succede? Ecco, lì che vero, c'è quella pubblicità che stiamo andando la song e ti rovina tutta la musica, capito? E tutta la mondetta in rumo. Quanto abbiamo tenuto poco noi, poi tu te l'hai fatto blu, io l'ho fatto verde, ma siamo lì, perché con il nicchi nero non vedi niente, non puoi aprire cam, non puoi aprire niente, invece con il nicchi colorato lo paghi, però hai la possibilità di stare in cam 24 ore su 24, aprirne quante ne vuoi. E poi non c'è la pubblicità sempre che ti corre nel rullo, capito? Nero non va bene, non mi piace a me. Ma a parte quello lì, a prescindere che uno se lo possa permettere, non se lo possa permettere di spendere 100 euro per usare un computer in questo sistema così di karaoke, è un problema di educazione, capito? Lui, come ha detto Luca, io sono d'accordo perché lui si crede il padrone, del team invece non è un cazzo, capito? Non è niente, perché noi ce l'abbiamo il team e siamo tutti padroni, quelli che dobbiamo essere, ma padroni nel senso perché l'abbiamo aperta, poi ognuno è padrone della stanza, non è detto che ci sono quelli che comandano, quelli che fanno, no. I moderatori giustamente devono stare attenti al comportamento degli altri, se qualcuno sbaglia, come quando sei in radio, prendi e chiudi, e lì lo bandi e ce lo butti fuori, poi decidi tu se metterlo nei panni delle 24 ore, quindi farlo rilassare, farlo capire che così non ci si comporta, e dopo 24 ore può rientrare oppure lo mette nei panni a vita, e quindi non entra più, non entra più, è sempre questione di educazione, fra. Vero, cazzo, però diciamo che nel rumo entra anche le persone con altri micchi, micchi da donna, cazzo, fanno casino, capisco Marco, ma c'è che hanno tutti i vostri rubriati in giro, nell'attimo centrale, vivi, con i micchi da donna, ma la mia stanza, mica, perché uscivano, ma là, però anche io c'è entrato con il micchi nero, per me io c'è entrato come Alessandra, è entrato come Antonella, è entrato come cosa, come Bianca, ti vado in tribunale, ma Dio, a carità. Non voglio perché devo spegnere, uscire come Claudio 60 e entrare come Mina più buongiorno, si chiama Franca 60 e entro io lo stesso nel team, se mettete Franco 60 io entro come Franca 60, capito? Annichi nero però così non se ne accorge e vediamo come si comporta domani, se mi chiama il PVT le dico se ti fai voi ti faccio un brigliotto. Ma per carità, addirittura quello lì regala anche i micchi regali su Franco 60, per carità. Io un blocco va, un blocco non potete entrare in porta, in privato, allora prendo la camera e voto via la bizzona, vedrai che gliela faccio. Ok, secondo me, non certo il blocco, ma secondo me gli ha regalato lui a Prendiamo. Sì, però mi hai tolto la parola alla bocca, ma infatti ti stavo dicendo poco fa, che poi ti sei allontanato, stavo dicendo a Franco, che lì il nicchi verde non è opera sua, è la chiocciola di nuovo, tutta leccata, servita e ferita, capito? È opera di Franco. Ma infatti, stavo dicendo una cosa, aspetta. A 15 c'era il radio qua. No, a 15. Ammazza di Luca, che per quello scandalo la metti di una 13. la parte è più strano. E comunque non, cioè non si copre una persona così, claro, vabbè. Io non guardo che una persona magari di postura, prima l'ha regalata meglio, lo potrei anche ricambiare. Non c'è problema, ma non è che non arriva neanche più bussino. L'anima Q, ma l'anima Q ce ne si può venire in campo. Tu c'hai ragione Franco, chi c'è un pedofilo, è un pedofilo. Io entro con lì chi dava un malomane, capito? Mi metto a mandarle, a scrivere la roba nel rullo a lui. Il mio anonimo, il mio qui, a chi entro, come te Franca 60, Nicchi vedi, Nicchi Nero. Ci mettiamo ai PVT, dopo imporrare la volata la camera che potevi la bisogna. Io ce la faglio, ma non mi sembra più nulla. Aiaia. Vabbè. Ma allora, quando tu ho finito, con Dio lo vedi, io ti ho creato una stanza, no? Ho iniziato con la vita terremoto, quelli di Alghero, no? Quella lì me l'ho creato una stanza, quella lì ho chiuso un po'. E non lo consoglio, no? Quando me la prendi non lo consoglio. Ma io sono una letta, ma... Domani il problema è Rizza. Rizza trattino basso, no, non Rizza, no. Entro come te, Moranda. Moranda trattino basso 23. E lo chiamo in PVT e gli scrivo, c'ho voglia di fare. Allora Giambazzi, ci vedo facilmente a me di scrivere il rullo. Brutto, grandissimo maniaco, però tutto. Io glielo faccio, tanto mi banno a vista. Ti sto dicendo, io abbasso la cam e tutta a terra e a lui lo faccio con l'uccello. Vedrai tu quello che succede. Fai effetto. Ti ho scritto una domanda, questa. Dice, manda, riparato, rientra, mi ha scritto, poi un altro nick. Che cosa dire a Edo? Ma che mi dava un messaggio, no? E se lui era giù di formattava e poi entrare. Beh, qualche messaggio più, ancora a me che ti diceva che gli aveva mandato prima. Ma messaggio più simili, eh. Intanto la messa andare non entra più. E chi l'ha detto fra? Quello formato rientra, te lo dico io a te. E la facciamo cagare Edo, vai. Quindi abbiamo più detto. Ma adesso la cosa non capisce niente. Perché prima di banare lui puntina, capito? Invece Moranda, ma lascio che è anteveloce, cazzo. Sto già un altro tempo, manco la prima bocca a me. Con l'altro lì, tu mi sa tutto pure. Ah, chiudiamo vado lì che sono entrato col mio e ci siamo attaccati come cani. Ho sbandato a Kenwood e ci ho dovuto entrare con Kenwood. Allora ho detto, manco Brane, non è Franco. Franco mi ha sorvolato un whisper e mi ha detto, come mai era successo questa cosa, magari se conoscevo prima, durante ciò te lo conosco. Gli ho detto io di entrare, l'ho invitato io, e Moranda subito l'ho bannato. E da non riposo più. Infatti oggi manco cagatelo. È perché c'è una grandissima bellezza, è un bel affascinante, eh. Non mi dice abita pure per i crimini, lo rullo, si crede, ma che si crede assì. Per carità, ma non ci mettiamo con il curato di un whisky, non è buona lì. Alissa, tite, cioè Valentina c'ho per la scrivania, come mi colpone, quando è, mi ha fatto ieri, domenica, perché domenica notte lui è entrato nella mia stanza, capito? E veramente ci ha vinto la droga. Ma bisi buro. Bisi, no, ma ce l'ha tutti. C'è sempre un cigarata, tutta questa male, oggi l'ha appoggiata pari a il cutarroccio. Stavo per dire, ma qua c'è il sonno? Non hai trombato stasera? Ce l'ho trombato uno. La cosa a voi è grave. No, fa che ne dai. Corrale devi avere un marito se no. Ma non è fidanzata neanche, no. Lui mi ha sposato, più piccola di me, del 76. Poi avevo un po' di diti di avere due mondo. E se l'ho vista già Luca Web, tutto diti, è grasso tella anche. Perché mi stai messo a ballare al reggipetto? Così il 76. Prima, che piccola di me. Si parla di 80 anni, che si. Raga! Moranda! Che 76 è? Per carità, che tu quanto è fea, che è solo un ditti. Va solo un ditti e boh. Sì, sì, che ti dico, ma invece fa loro del tizio, poi non ci fregano il culo. Ma parlare con Nick, io vabbè non me la fotte nulla, pure ci mi buoni, mi bannano, non me la fotte nulla. Ma se c'è molto da fare tutto, però la devo fare a pezzi, eh. Oh, me la sto studiando. Il giorno che entro non voglio divertirmi, guarda, la faccio a pezzi a lei. A Franco, no, a Franco li faccio come l'uccello io. Tu vedrai che lo chiamo a lui e l'ho fregato. Però capisci su Marco ormai da dentro. Entro con l'altro lì che davvero, non posso capire, mi posso bannare, poi entro e mi sbanno di nuovo, intanto io sono superato e mi potevo sbannare. E vabbè dove entra a fare casino. Non vuoi vedere tu? No, prima di andare non mettiamo a questa gente, capito? Soprattutto a questi dei ciclone, sa che cosa. Se lo vuoi dire, nemmeno mi ha dato tempo di niente, ma ho molta educazione mi fa. Così io e tre che brutta son che gli ho scritto nel rullo e gli ho mandato i fiori. Se mi ha detto, ma tu come ti permetti, ci conosciamo, a dirmi che brutta son, ma chi sei, si è appena entrato. Allora gli ho scritto, ma guarda che non è il caso di, boom, e mi sa tutto pure. Però mi veloce, mannandomi, manda, ma adesso che avrei avanti. Quella lì l'altro qui tutta la stanza, adesso è lì da The Music. A volte l'altro è ben grado per il palo, a volte l'altro che non è la stanza, a volte se ne vado dove ci sono le chiocciole, nelle stanze quelle con qualcosa rosso, in quelle stanze lì. Come di volta l'ho beccata lì anche, perché io entro anche lì, con le chili diversi, capita a dire, mi giro un po' tutto. Sì, se gli trovo una giornata di bulimia, di vinnicchi, ma me li ho già segnati. Ne ho già segnati un 3 o 4 di quelli belli, capito? Me ne voglio invertire, allora come stavo in ferro, me ne voglio invertire io, visto che non c'ho più, c'ho la mano fucchinuta, ti dico che l'ho sbasciato io la macchina, ha detto. Beh, no, pensavo io fischiando invece il computer. Allora, sono 11, domani mi ha già 6, quindi vi saluto, un abbraccio a tutti e buona notte, ciao Franco, ciao Luca e ciao a chi sta ascoltando sui canali 10. Ciao domani, manco lo buco mi scelta. Ciao Claudio, buonanotte, buon tutto, grazie per la chiacchierata, andar bene a me da domani. Ciao, buonanotte, quando vuoi entrare siamo qua, farò andare a produrre la radio. Se non ci vediamo voi. Ciao Gabriello! Ehi, guardi, io qua fino a tutto. A domani, però un po' di risolvere il problema qua. Aspetta. Che avanti di coglione, no. No, non c'è traffare, l'antenna. Poi dovevi salire qua, era un po' con KPL. Ma buona, buonanotte, a domani, c'è ciao. Ciao Luca, buonanotte, ciao, anche io chiudo, vai. Adesso entra in PC, vedo grave, vai, trovo una cronica, fa casino. Lui, se domani si asciuga l'antenna, non è che lo fa. Bisogna procurare una correttore e metterlo in mezzo, in modo che quando c'è questi problemi, gira il correttore e non te lo fa più. Ciao a Toro, se buonanotte, no, non lo farà, avanti il prodotto che mi sono avuto in mente, che domani mi passerà un bel presto, sono fuori, non so se è con la vaginata, se rimango a Sassari, vediamo com'è il tempo, ciao, buonanotte.